edizione. Le 6:16 minuti e 40 secondi, prima di dare la linea alla viabilità, un aggiornamento dal lato dei mercati. L'indice Nikkei a Tokyo guadagna l'1,86%, quindi insomma una buona reazione al voto in Grecia, così come ha avuto una buona reazione l'euro, che è ritornato sopra quota 1,27 contro dollaro, 1,2704 per l'esattezza. Sentiamo cosa succede su strade e autostrade, ci ritroviamo subito dopo per una breve rassegna stampa. Prima edizione. Sono le 6:18 minuti e 22 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, abbiamo 10 minuti per dare un'occhiata a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola. Come potrete facilmente immaginare, i titoli, in realtà non solo dei quotidiani italiani, sono dedicati alla Grecia e al voto che c'è stato ieri. Il voto della Grecia fa respirare l'Europa, il titolo del Corriere della Sera. Vince il partito pro-euro, è quello della Stampa. Grecia, resteremo nell'euro, è il titolo della Repubblica. La Grecia sceglie l'Europa, il Messaggero. Il giornale, l'euro è salvo per ora. E l'Unità, la paura spinge la Grecia a destra. Quindi, con letture diverse, il senso è più o meno lo stesso. Si apre i giornali naturalmente dedicandosi alla Grecia. In primo piano naturalmente anche quello che è successo in Nigeria, che vi abbiamo raccontato poco fa e che torneremo a raccontarvi nel corso dei giornali radio. Come si diceva, iniziamo dal Corriere della Sera. Il voto della Grecia fa respirare l'Europa, vincono i conservatori pro-euro, governo con i socialisti per uscire dalla crisi, il sollievo di Bruxelles e di Monti, apertura della Germania che dice daremo più tempo, che forse a questo punto è l'elemento centrale, questa idea della Germania di dare più tempo dal lato della realizzazione delle misure sull'austerity. Un pezzo in prima pagina, commento in prima pagina di Marcello Messori, si intitola La terza tregua, mentre l'analisi del voto è affidata ad Antonio Ferrari sul Corriere della Sera. Il titolo, abbastanza esplicativo di per sé, è La grande paura che ha cambiato la scena politica. A centropagina la strage di cristiani in Nigeria, il massacro, poi la reazione, ancora morti e feriti, 5 luoghi di culto pieni di fedeli colpiti e immediata reazione dei cristiani, il bilancio 21 morti e centinaia di feriti, il Vaticano che dice orribile e inaccettabile disegno di odio. Da segnalare che molti giornali hanno comunque in prima pagina un richiamo a quello che succede all'interno dell'esecutivo. Insomma, sapete che nel fine settimana il Presidente del Consiglio, Mario Monti, ha detto che vuole arrivare al Consiglio europeo del 28 con la riforma del lavoro approvata, perché non averla approvata ci farebbe arrivare là con meno punti, questa è l'espressione di Monti, continua ad esserci tensione sulla riforma del lavoro, evidentemente all'interno delle forze politiche. Riforma del lavoro, tensione PDL, PD e ipotesi di fiducia. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Segnaliamo anche, interessante perché l'altro tema di dibattito riguardo al mercato del lavoro e alla previdenza in particolare, sono i miei conti e i consigli sugli esodati di Pietro Ichino. Lo consigliamo perché sembra fare un po' più di chiarezza in merito a questi numeri che finora non sono usciti molto chiaramente, diciamo così. Ecco, come ben sappiamo, è stato uno dei punti centrali di polemica tra il sindacato e il ministro Fornero. La Repubblica, come si diceva, apre con quelle che di fatto sono le dichiarazioni di Samaras: Grecia, resteremo nell'euro, i conservatori vincono con il 30%, l'Europa ora sosterremo Atene. Andrea Bonanni firma un pezzo nel quale dice che l'emergenza non è finita, Maurizio Ricci l'analisi, la moneta unica, i nodi da sciogliere. C'è un titolo dedicato anche alla Francia, affluenza bassa nel secondo turno elettorale, come sapete si vota a doppio turno anche per l'elezione dei parlamentari in Francia, ai socialisti la maggioranza assoluta fuori Le Pen e Ségolène. A centropagina la strage di cristiani in Nigeria e qualche dettaglio in più per quanto riguarda la riforma del mercato del lavoro, il presidente della Camera, possibile sia la legge prima del vertice europeo, a parlare Fini, pressing di Fini, ma i partiti dettano le condizioni, la Lega intanto dice guerra all'IMU, perché oggi appunto è il giorno del pagamento dell'IMU, prima tranche. Il caso ci racconta una storia, la Repubblica, che riguarda la beffa delle tasse. 36 atenei chiedono più del dovuto, si parla dell'università quindi, e gli studenti ricorrono al TAR per ottenere i rimborsi. Ma c'è anche un'altra storia interessante che non troviamo dappertutto, a dire il vero, ed è la vicenda di Rodney King. Per chi se lo ricorda, perché ormai è una vicenda di una ventina di anni fa, è il tassista che fu pestato a sangue nel 91 dalla polizia e divenne il simbolo della rivolta nera di Los Angeles di quegli anni. E questo il quadro per quanto riguarda la Repubblica. Ovviamente nemmeno ve lo diciamo, in primo piano tutto, su tutti i quotidiani troviamo la partita di questa sera dell'Italia, tra Repubblica e Dice, la partita doppia dell'Italia contro l'Irlanda e i trappattoni, Sconcerti, Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, Fratelli d'Italia, proviamo a vincere, e Marco Ansaldo che sulla Stampa firma un pezzo, Prandelli a caccia del gatto del trap, il famoso non puoi dire gatto se non ce l'hai nel sacco, Irlanda decisiva per l'Italia, il CT azzurro, se va male mi prendo le responsabilità. La Stampa, anche qua come si diceva, apre sulla Grecia. Vi possiamo segnalare due cose interessanti da qua. Innanzitutto il dossier, la maturità dei ragazzi dell'Europa, perché mercoledì c'è il debutto dell'esame che arriva via mail, cancella il rito delle buste segrete, ma come funzionano e sono le prove negli altri paesi? Questo è un servizio su due pagine, pagine 14 e 15 della Stampa. E poi Giacomo Galeazzi firma un nuovo pezzo, molto attenta la Stampa e molto attento Galeazzi alla vicenda VatiLeaks. Corvi, il Papa conosce le loro identità, l'ex maggiordomo arrestato un mese fa indica laici e altri prelati. Veniamo al Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore numero del lunedì, come sapete è un numero freddo, ma in realtà ci troviamo tantissimi temi caldi nella giornata di oggi, perché come si diceva è il giorno del pagamento dell'IMU e questa è l'apertura. L'IMU porta i primi 10 miliardi, ultimo giorno oggi per pagare la prima tranche del tributo municipale con il modello F24, le 10 mosse per l'acconto last minute, trovate una guida molto puntuale da questo lato. Sul gettito finale pesano le incognite delle scelte dei comuni e le difficoltà della crisi. Scusate. Salvatore Padula firma un commento in prima pagina, l'imposta più antipatica, fragile il patto per un fisco equo e semplice, questo soprattutto in riferimento alle difficoltà che ci sono per pagare l'IMU. Molto interessante anche quello che troviamo a centropagina e sospettiamo che diventerà tema di dibattito, se non di nuovo scontro, tra i sindacati e il governo. La stretta sugli statali, qualcosina è circolato nelle ore scorse, nei giorni scorsi. E però il Sole 24 Ore presenta dei dettagli che faranno discutere. Vertice in giornata sul capitolo pubblico impiego della Spending Review. Allo studio c'è uno scivolo con tagli fino al 50% della busta paga, quindi un'uscita con tagli fino al 50% della busta paga per gli statali. Ripeto, sicuramente questa cosa farà discutere. La platea degli over 60 ci segnala tra l'altro il Sole 24 Ore di 231.000 persone, 25.000 delle quali nei principali comparti dello Stato. Altre cose da segnalare, veramente molte oggi, sul Sole ci sono dettagli sugli incentivi sulla casa, il riordino che premia le ristrutturazioni. Vi segnaliamo questo servizio firmato da Andrea Biondi di Taglio Basso, che è piuttosto curioso perché riguarda la crescita dell'inflazione. Da maggio 2012 i picchi dell'inflazione da maggio 2012 sul rispetto al 2011. Ed è curioso perché tra i picchi di inflazione non ci troviamo né i luoghi dove ci sono le grandi città, insomma, né grandi regioni, ma in Basilicata i prezzi sono cresciuti del 5,1% nel giro di un anno, ed è la Basilicata il luogo dove l'inflazione è cresciuta di più, mentre quella dove è cresciuta di meno è la regione gemella, ossia il Molise, con un 2,5%. Oggi col Sole vi ricordiamo anche la guida sull'università, la laurea giusta per vincere, la scommessa del lavoro, c'è la mappa dell'offerta formativa degli Atenei anche sul sito del Sole 24 Ore. Il Messaggero, come si diceva, la Grecia sceglie l'Europa, sull'Italia il titolo è Dentro fuori Italia non sbagliare, a firma di Ugo Trani, anche qua titolo sulla riforma del lavoro e lo scontro nella maggioranza. Da segnalare che il Messaggero mette in prima pagina l'Usi, ho eseguito ordini, votate no al mio arresto, dice l'ex tesoriere della Margherita. Siamo quasi in chiusura, veniamo agli ultimi due giornali di questa mattina. Il Giornale, che parla delle elezioni in Grecia, l'euro è salvo per ora, questo è il titolo. Ad Atene vince la destra filoeuropea, accetterà le condizioni imposte da Bruxelles per sopravvivere, ma la crisi è ancora pesante, se non cambia la politica della Merkel e di Monti continueranno i guai. Commento di Vittorio Feltri in prima pagina, la moneta unica resta un pasticcio senza futuro. E poi Renato Brunetta firma pagine 6 e 7, il dossier ride solo la Germania, ecco come si è arricchita. E a centropagina invece sulle elezioni francesi, l'ex marito trionfa, lei scompare, la vita di Ségolène va a rotoli, questa la scelta del Giornale. Chiudiamo con l'Unità, che scrive appunto la paura spinge la Grecia a destra, quindi una visione un po' diversa rispetto a quella che abbiamo sugli altri quotidiani. E interessante il dettaglio sul perché ci sia questo scontro, questi problemi, queste tensioni nella maggioranza sulla riforma del mercato del lavoro. Mercato del lavoro, prima gli esodati, PD pronto ad accelerare il voto a patto che si faccia un decreto sui lavoratori danneggiati, e ci ricorda l'Unità che il ministro Fornero domani riferirà in Parlamento sul tema degli esodati, quindi forse finalmente riusciremo ad avere un po' di chiarezza su questi numeri. Con questo chiudiamo questa prima rassegna stampa, vi ricordo che poi il nostro Alessandro Milan come sempre approfondirà e darà più ampio spazio dopo il Giornale Radio delle 7, ci ritroviamo tra poco con le notizie in breve. Prima edizione. Le 6:37, il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Oggi è il 18 giugno e come ogni lunedì a quest'ora c'è Italia in controluce. Trame Festival, primo evento culturale in Italia dedicato ai libri sulle mafie, inizia per la seconda volta alla Mezzia Terme il 20 di giugno, cioè dopodomani. Dal cuore della Calabria arriva dunque la voglia di denuncia e di risveglio delle coscienze contro le mafie. Workshop e incontri con gli autori coinvolti in prima persona nella lotta alle organizzazioni criminali nel nostro paese. Alessandra Tedesco ha intervistato il direttore del festival, Lirio Abate. Trame è il Festival dei Libri sulle Mafie, che è nato lo scorso anno grazie alla volontà dell'Associazione Antiracket di Lamezia Terme, che è nel cuore della Calabria, grazie a un gruppo di volontari, di giovani impegnati praticamente a dire no all'andrangheta e alle mafie, e grazie al sostegno di alcuni amministratori, media partner, eccetera, che ci siamo messi insieme e abbiamo detto che con la pratica, andando in trincea, cioè in Calabria dove nasce l'andrangheta e poi si diffonde, si può mostrare praticamente quell'esempio culturale che diamo nei libri, sui giornali, quando scriviamo contro le mafie. Anche quest'anno Trame ritorna alla Venezia Terme dal 20 al 24 giugno, dopo un grande successo che ha avuto lo scorso anno con centinaia di appuntamenti che si sono protratti per 5 giorni dalle 18 del pomeriggio fino alla luna di notte, doppiando molti di questi. Grande successo dei calabresi che sono venuti in massa, significa che la gente ha bisogno, ha sete di sapere, ha sete di avere sul campo, sulle proprie città, nelle proprie piazze, esempi concreti, esempi pratici di chi dice no alle mafie e di chi incoraggia a rompere quel muro dell'omertà. Spesso si dice che sui giornali non si trovano più le inchieste di una volta, anche nel campo appunto delle mafie. I libri possono in qualche modo supplire a questa mancanza? I libri sulle mafie nascono proprio per questo motivo, perché i giornali non hanno lo spazio per raccontare tutto quello che ci sarebbe e c'è da raccontare sulle mafie. Radio 24 lo fa benissimo, dedica molto spazio, però un approfondimento come quello che è il libro sulle mafie, con questi grandi saggi scritti da grandi giornalisti, magistrati, investigatori, era necessario ed è necessario. E Trame nasce per questo, perché fino allo scorso anno in Italia, con tutti i festival di letteratura che ci sono in giro per la penisola, non c'era un festival dedicato ai libri sulle mafie. Ma non è soltanto un festival, è l'esempio pratico di gente che si mette alla scrivania e racconta e scrive un libro che poi vogliamo portare sul territorio. E l'esempio, la lettura e la cultura ci porta poi a dare esempi pratici in Calabria che conviene raccontare e denunciare che non subire l'andrangheta. Avete ascoltato Lirio Abbate, il direttore del festival a Trame, intervistato da Alessandra Tedesco. Ritorniamo oggi con nuove storie e nuovi reportage alle 13.30 su Radio 24. Le 6, 41 minuti e 23 secondi, dunque apriamo la pagina delle elezioni in Grecia e partiamo prima di tutto dai dati. Gli ultimi del Ministero dell'Interno greco danno Nuova Democrazia al 29,66% con 129 seggi, Syriza, il partito di sinistra come sapete, ha 71 seggi col 26,89%, il PASOK che sono i socialisti al 12,28% con 33 seggi. Quindi insieme Nuova Democrazia e il PASOK arrivano a 162, lo spoglio è quasi definitivo. Vittorio Darold, collega del Sole 24 Ore, inviato ad Atene, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Vittorio, i dati sono questi, forse le cose sono lievemente più complesse di come le stiano prendendo tanto i leader europei, che guardano con speranza naturalmente al prossimo governo greco, quanto i mercati, che questa mattina stanno reagendo piuttosto bene. Tokyo guadagna l'1,81 e l'euro è sopra 1,27 contro dollaro. Così sono un po' più complesse, no? Sì, esattamente. Naturalmente il dato di fatto era quello che tu già accennavi, cioè i partiti a favore dell'Europa, i partiti appunto pro salvataggio hanno vinto e quindi questa ipotesi e questo fatto allontana l'ipotesi dall'uscita dall'euro, che era quello che i mercati più temevano. Resta però il fatto che Syriza, cioè la sinistra radicale, ha un voto su 4 dei greci e quindi farà quello che sa fare meglio, cioè grosse proteste di piazza e fermerà qualsiasi tentativo delle cosiddette riforme strutturali che l'Europa chiedeva in maniera così forte e che invece fino adesso non sono state ancora mai passate. Naturalmente questo lascia ancora delle ipotesi abbastanza aperte, hanno cominciato subito già i primi litigi fra i due partiti, perché naturalmente Neodemocrazia non ha i voti a sufficienza per formare un governo appunto da sola, perché avrebbe anche con i 50 seggi di maggioranza del primo di maggioranza, arriva a 129 seggi e ce ne sono 151, quindi avrà bisogno dei voti dei socialisti del PASOK, che sono precipitati al 12% dal 48% del 2009, quindi una debacle, una storia che si ripete, chi fa le riforme perde le elezioni. Però appunto il leader del PASOK Venizelos ha già detto che vorrebbe che anche Syriza, quindi la sinistra radicale, venga in qualche modo coinvolta nel governo, anche per cercare appunto di eroderne il grosso successo, l'enorme successo, ma questo naturalmente è impossibile, quindi c'è già un primo problema all'orizzonte. Le banche d'affari hanno già mandato i loro primi commenti e secondo appunto sì, ad esempio la Grecia avrebbe solo guadagnato tempo, ma l'ipotesi di una sua uscita dall'euro tra qui e 6 mesi resta ancora al 50%. Chiaramente Vittorio, ci sembra evidente. Un'ultima cosa brevemente, detto ciò, dato che Syriza è comunque un partito pro-euro, cioè contro, come dire, le riforme proposte all'Europa, però è un partito pro-euro, mi sembra che la maggioranza dei greci abbia espresso chiaramente il desiderio di restare nella moneta unica. Esattamente, i greci vogliono restare nella moneta unica, ma non vogliono fare le riforme. Questo problema, questa contraddizione resta tutta nelle carte, perché c'è all'interno della stessa neodemocrazia una forte corrente che non vuole fare le riforme, soprattutto non è molto d'accordo nel tentativo di far pagare le tasse, e questo è un elemento cruciale invece, perché se le entrate non cominciano a entrare copiose non c'è possibilità di tornare al pareggio di bilancio, ma questo è un problema proprio di fondo, c'è il 20% dell'economia che appunto del paese è il record assoluto nell'Eurozona, che non entra nella contabilità fiscale del paese. Sono stato alla vigilia del voto proprio ieri in una delle spiagge più esclusive di Atene, dove per entrare si paga un biglietto di 25 euro e vi garantisco non c'erano solo russi o turisti americani, c'erano famiglie di greci che allegramente pagavano appunto 25 euro a testa per ciascuno ed erano tutti quanti al mare tranquilli. Evidentemente la crisi ha colpito solo alcune fasce, ma sono rimaste completamente escluse. Ci ricorda qualcosa. Grazie Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore ad Atene. Noi andiamo a sentire cosa succede su strade e autostrade e poi invece andiamo in Egitto. Prima edizione. Siamo dunque a parlare di Egitto, dove le cose non sono per nulla chiare, perché se da una parte i fratelli musulmani celebrano la vittoria del loro candidato, lo fanno anche dallo staff di Ahmed Shafik. Ci colleghiamo dunque con Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore al Cairo. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Allora, mi sembra che la situazione sia ancora piuttosto confusa. Beh, in confronto la questione greca sembra una questione svizzera, in confronto all'instabilità e alle incertezze dell'Egitto circa 12 ore dopo la chiusura dei seggi. Non si sa chi ha vinto, perché i fratelli musulmani hanno già tirato fuori le bandiere, hanno già fatto festa, mentre invece al quartier generale di Shafik, cioè l'ex generale di Mubarak, dicono che il comportamento dei fratelli musulmani è completamente, lo metto fra virgolette, cioè nel senso che lo dicono loro, è completamente immotivato, nel senso che ancora anzi sono convinti di essere loro in testa. I fratelli musulmani dicono di aver vinto 52-48% e il fronte invece di Shafik non sa, non dà cifre così precise, ma la cosa più importante è che nessuno sa a questo punto quante schede sono state scrutinate e quindi siamo completamente nel pallone. Detto questo, però, è quasi irrilevante il risultato presidenziale su chi vincerà, perché nel frattempo, d'un paio d'ore dopo la chiusura dei seggi ieri sera, e lo SCAF, cioè la giunta militare che da Piazza Tahrir in poi gestisce la cosiddetta transizione, in realtà è un'affermazione graduale del potere dei militari, lo SCAR, dicevo, ha deciso, ha fatto una quella che definisce sempre dichiarazione costituzionale, cioè praticamente ordini di servizio al paese, nel quale lo SCAR stabilisce che si attribuisce poteri legislativi. C'è anche un bilancio da approvare secondo la legge entro il 1 luglio, un bilancio di una situazione economica di poco drammatica in questo paese, e quindi appunto anche sulla base di questo hanno deciso di assumersi i poteri legislativi che però soprattutto significano che i militari, poiché non c'è un Parlamento che è stato appunto sciolto alcuni giorni fa dalla Corte Costituzionale, evidentemente su ordine anche della giunta militare, lo SCAR, dicevo, stabilisce che deciderà lui come sarà formata e da chi sarà formata la commissione costituzionale che deve scrivere poi le regole del cammino futuro di questo paese. Chiarissimo, grazie Ugo Tramballi per questi aggiornamenti e per questo racconto. Non abbiamo tempo di farvi ascoltare invece le voci dalle tendopoli del terremoto, sicuramente ci torneremo nel corso della mattinata. Grazie a Peter Bescapè in regia, Diego Rovelli in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia buona giornata e ci sentiamo tra poco col GR.